Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio. Allora, so che questo è un termine che, come dire, ha un'accezione diversa, ma oiggi anche noi parleremo di pentiti, parliamo dei pentiti del fisco, perché questi hanno altri 2 mesi di tempo per mettersi in regola qualora avessero esportato negli anni passati all'estero capitali o patrimoni violando le norme italiane sul monitoraggio fiscale. È partita infatti la fase 2 dello scudo fiscale, che presenta al proprio intermediario fino a fine febbraio la dichiarazione riservata che fa emergere i capitali, deve versare un'aliquota, qualcuno la chiama sanzione, del 6%. Per gli irriducibili e indecisi sul regolarizzarsi o meno entro febbraio ci sarà poi anche una terza opportunità fino a fine aprile, con la condizione di versare un'aliquota in tal caso più alta del 7%. Nei giorni scorsi è arrivata l'attesa circolare dell'Agenzia delle Entrate con tutte le informazioni necessarie a chi deve scudare, soprattutto ai professionisti incaricati della consulenza nei confronti di chi intende avvalersi di questa opportunità, e noi anche di Salva Danaio oggi ritorniamo sull'argomento per dare un aiuto e tutte le informazioni a quegli ascoltatori contribuenti che non hanno ancora capito cosa devono fare e non hanno approfittato della finestra, quella ufficiale che si è aperta, come ricorderete, fino al 15 dicembre. Ne abbiamo parlato appunto in altre puntate della nostra trasmissione. E allora i nostri interlocutori di questa mattina, ma soprattutto i vostri, a cui voi potete chiamarci come sempre all'800 24 00 24, e in diretta potrete interagire questa mattina intanto con il dottor Alessandro Dragonetti, dottore commercialista, partner dello studio Bernoni, professionisti associati di Milano. Benvenuto a Salva Danaio. Grazie mille, buongiorno. E un bentornato invece all'avvocato Fabrizio Vedana, responsabile dei servizi legali di Unione Fiduciaria S.p.A. e la fiduciaria dei servizi delle banche e servizi appunto delle banche popolari. Bentornato. Buongiorno a tutti. Allora, 800 24 00 24, il numero verde ve lo ricordo ancora, ma ci potete anche scrivere al 349 238 6666. Voglio subito rispondere ad un'ascoltatrice, Giovanna da Imperia, che ci sollecita su questo da qualche giorno. Quando tornata farò una trasmissione sulle borse, sui mercati. Giovanna, noi aspettiamo il vertice di domani di Bruxelles, che farà il punto sul piano di aiuti che l'Europa metterà in campo per la Grecia, e quindi vedremo come reagirà il mercato. Faremo un punto venerdì sui mercati, su quello che è accaduto questa settimana, e quindi anche noi faremo un altro monitoraggio che non è quello fiscale, ma faremo quello appunto sul mercato. Intanto oggi, proprio in vista di questo vertice di domani, l'Europa sta brindando oggi alla promessa che la Grecia non verrà lasciata allo sbando, e abbiamo un rialzo dell'1,35% sulla piazza francese, appunto sul CAC 40, Francoforte, DAX 30 più 1,37%, il FTSE 100 a Londra più 1,15%, il FTSE MIB a Piazza Affari brinda molto di più, più 2,53%, c'è proprio uno scatto di tutti i titoli del settore bancario. Pensate che Intesa San Paolo sta guadagnando 4,5 punti, Unicredit 3 punti, non riesce ancora però a riacciuffare i 2 euro, Banco Popolare più 3,85%, la Popolare di Milano più 3,63%, 3,5 punti anche per STM, più 3 per Bulgari, per Mediobanca, più 3 punti per Italcementi e Mediolanum. Insomma, una giornata davvero di sospiro di sollievo per gli indici e per la gran parte delle società quotate. Appunto, un po' meno felice la giornata per Prismian e Buzzi Unici, mi sono in calo piuttosto contenuto, meno 0,08, meno 0,10%. Peraltro oggi abbiamo osservato anche con attenzione Fiat, perché il governo a quanto pare ha cancellato le intenzioni di nuovi incentivi per il settore. Il titolo era partito male e poi ha girato e adesso sta guadagnando il 2,29%. Ovviamente sulla scia del salvataggio greco brinda anche l'euro, sul dollaro a 1,3808 in questo momento, quindi netto recupero della moneta unica europea nei confronti del biglietto verde. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi e rifacciamo il punto sullo scudo fiscale. Si allungano i tempi per lo scudo fiscale, ma regole e procedure non cambiano. Dopo la chiusura della prima finestra il 15 dicembre scorso, è stato infatti fissato un nuovo termine, il 30 aprile 2010, entro il quale i soggetti interessati potranno decidere se aderire all'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali esportate o detenute all'estero. Di fatto, si potrà regolarizzare la propria posizione attraverso il versamento di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute al 31 dicembre 2008 ed effettuare gli adempimenti richiesti per il rimpatrio o la regolarizzazione nell'arco temporale che va dal 30 dicembre 2009 fino al 30 aprile. Ma se le modalità restano sostanzialmente immutate, è l'imposta straordinaria da applicare che cambia passo. Il costo della nuova emersione sarà infatti più salato rispetto a quello pagato da quanti hanno scelto di aderire entro il 15 dicembre scorso. Per rimpatri e regolarizzazioni effettuati dopo quella data e fino al 28 febbraio prossimo, l'imposta sostitutiva sale infatti dal 5 al 6%. Chi invece vorrà prendere tempo fino al 30 aprile dovrà pagare il 7%. Aderendo allo scudo a partire dal prossimo 1 marzo. 800 24 00 24, torno ancora a ricordarvi il numero verde per le vostre domande, c'è già chi si sta prenotando. E allora, noi, come abbiamo già avuto modo di precisare nelle altre trasmissioni dedicate a questo argomento, difficilmente immaginiamo di ricevere telefonate di chi ha enormi patrimoni all'estero, perché chiaramente si sarà rivolto magari a qualche professionista molto riservato e che non racconti a tutta la piazza italiana i fatti di casa propria. Detto questo, però, perché noi torniamo a riparlarvi di questo argomento? Perché magari in buona fede c'è chi può aver comprato per un puro investimento una casa all'estero qualche tempo fa, non comprendendo bene i meccanismi anche di denuncia al fisco italiano di questo investimento. Oppure banalmente ci è già capitato di ascoltare esperienze di chi lavora per un po' di tempo all'estero, apre un conto corrente, lo movimenta un po', magari apre anche un piccolo conto di risparmio appunto su questo prodotto e non sa bene come sistemarlo con il fisco italiano. Insomma, magari proprio operazioni in buona fede, lo scudo fiscale serve anche a regolarizzare queste operazioni. Allora, comincio col dottor Dragonetti, perché è per la prima volta con noi a Salvadanaio questa mattina. Nei giorni scorsi l'Agenzia delle Entrate ha precisato i termini di questa fase 2 dello scudo fiscale, ma tutto sommato rimane tutto come prima, sono cambiati solamente i tempi e quindi in sostanza sono stati precisati i parametri della proroga, dottor Dragonetti. Sì, esattamente. Diciamo che hanno precisato una cosa importante, al di là del nuovo termine di fine di febbraio per il 6% e fine di aprile per il 7%, ma hanno anche detto che le cause ostative che erano contemplate per il primo scudo della nuova, diciamo, generazione, che consentivano di regolarizzare tutti gli adempimenti entro fine del 2010, possono essere anche usate per coloro i quali si affacciano a queste due nuove finestre, quindi tutti coloro i quali aderissero al nuovo scudo possono anche loro invocare la causa ostativa che gli consente di pagare entro le date, ma di sistemare tutti gli incartamenti che sinceramente talvolta sono veramente molto molto complicati entro infatti, fine anno. Perché le attività finanziarie che si possono detenere all'estero possono essere anche piuttosto complicate, quindi si può fare subito, come dire, un calcolo dell'applicazione dell'aliquota e però poi il rimpatrio, che può essere giuridico o come dire concreto, no? Concreto, certo. Esatto, materiale, può essere in sostanza definito in tempi un po' più tranquilli, certo. E però l'importante, quello che interessa al fisco italiano, dottor Dragonetti, è che si quantifichi immediatamente quanto può rientrare. Esatto, diciamo che per fare nomi di strumenti finanziari che negli ultimi anni sono abbastanza conosciuti, gli hedge fund, chi avesse investito in hedge fund all'estero ha difficoltà di smobilizzo e chiaramente una finestra di 4 mesi non sarebbe sufficiente, una finestra di 12 mesi, 11 mesi, 10 mesi per la completamento delle formalità è senz'altro sufficiente. Certo, altri esempi di attività patrimoniali detenute all'estero sono quelle per esempio che si riferiscono a yacht, gioielli, opere d'arte. Avvocato Vedane, in questo caso è un po' più facile invece, come dire, operare il rientro, qui non credo esistano cause ostative che richiedono tempi lunghi, oppure mi sbaglio? Mai dire mai. Beh, per un'opera d'arte effettivamente, se uno avesse un Van Gogh che deve far periziare, ecco, ad esempio, potrebbe indicare nella dichiarazione riservata un valore indicativo sul quale applicare l'imposta e poi in un successivo momento fare un ricalcolo sulla base di una perizia. Oppure, cosa che è capitata, il quadro è depositato presso un cavo estero, il cliente ritiene di lasciarlo all'estero utilizzando la formula del rimpatrio giuridico, intestando alla fiduciaria il cavo. Il passaggio tecnico del contratto dal cavò precedentemente intestato al cliente alla fiduciaria potrebbe scontare tempi tecnici incompatibili con la strettezza delle date, quindi avere un po' più di tempo grazie a questa causa ostativa può avere un senso anche in quel caso. La decisione di fare il rimpatrio fisico, quello giuridico, sta al contribuente oppure ci sono degli obblighi precisi in questo? Beh, il contribuente ha la possibilità di scegliere sempre se fare l'effettivo, quindi riportare effettivamente in Italia i beni se questi beni si trovano in paesi europei o in un altro stretto elenco, tra i quali gli Stati Uniti, di paesi considerati collaborativi, mentre invece non ha altre strade se non lasciare i soldi all'estero, in particolare attraverso la forma del rimpatrio giuridico, se questi beni si trovano, tipicamente il caso degli immobili, in paesi non collaborativi. Tipici esempi di paesi non collaborativi da questo punto di vista sono considerati la Svizzera, Monte Carlo, dove spesso e volentieri gli italiani hanno degli immobili. In quel caso la formula della regolarizzazione non è possibile, mentre è possibile la formula del rimpatrio giuridico. Quindi il rimpatrio fisico, il rimpatrio fisico giuridico è sempre e regolarizzazione possibile. Non sono tre strade diverse? Sono tre strade alternative. Il rimpatrio fisico è possibile sempre, ovviamente compatibilmente con la natura del bene. L'immobile fisicamente non si può trasportare sempre, solo negli Stati Uniti hanno gli immobili con le ruote. La formula della regolarizzazione si può utilizzare solo limitatamente ad alcuni paesi. La formula del rimpatrio giuridico si può utilizzare sempre, a prescindere dal paese e a prescindere dalla natura del bene. Dottor Dragonetti, l'avvocato Vedana ci faceva l'esempio dell'opera d'arte che va periziata naturalmente, quindi teoricamente si comincia ad avversare l'imposta su questo capitale, dopodiché in un momento in cui c'è una sorta di conguaglio nel momento successivo che dà l'opportunità al contribuente di sistemare definitivamente la questione, ma su questo secondo ricalcolo poi ci deve pagare una sanzione il contribuente? No, c'è una sanzione. Perché era dimostrato che era la causa ostativa? Lui in dichiarazione indica espressamente che c'è una clausola ostativa e quindi lui ha liquidato sulla base di una situazione, diciamo, di periodo, dopodiché pagherà quello che deve. Certo. Dottor Dragonetti, quali sono? Lei probabilmente starà seguendo qualche cliente che ha bisogno di far rientrare qualcosa, non le chiedo ovviamente particolari, ma le situazioni più complicate che si sta trovando a gestire quali sono? Forse quella più complicata in assoluto, se ne parlavo con il con l'avvocato prima, quello delle CFC, cioè chi ha dovuto regolarizzare la detenzione di partecipazioni in società residenti in paesi blacklist, in paesi che hanno quindi una in paesi che non hanno una fiscalità, laddove quindi è stata concepita una tecnicalità estremamente complicata che richiede tempi e anche un po' di fantasia per risolverlo. Altre situazioni difficili sono sicuramente quelle rappresentate dai portafogli composti da titoli non armonizzati, laddove quindi bisogna vedere come liquidare il portafoglio senza perdere troppo, perché poi chiaramente c'è un'esigenza sottostante che io devo sì mettermi in regola con il fisco, ma non voglio neanche lasciare sul tavolino una minusvalenza decisamente imbarazzante. Magari queste persone avranno pensato un po' se scudare o meno, adesso lo faranno magari in questa seconda tranche, non lo so. Chi ci sta ripensando, per esempio? Chi ha avuto qualche, come dire, ostacolo anche mentale a fare questa operazione fino a dicembre, ma ci sta ripensando adesso? Innanzitutto l'esito della sanatoria, diciamo, nell'opinione pubblica non era così diciamo assodato che sarebbe stato positivo, e quindi l'italiano è tradizionalmente molto attento e aspetta l'ultimo momento, l'ultima ora. Per quando sono usciti i dati ufficiali che hanno conclamato, diciamo, una novantina di miliardi di rientro, 85 miliardi di rientro, quindi hanno capito che sono molti quelli che l'hanno fatto, ecco che allora stanno valutando di accodarsi anche loro come ritardatari, pagando un chip d'ingresso abbastanza contenuto dell'1% in più sostanzialmente. Infatti, tra l'altro, qualcuno calcola che potrebbero rientrare adesso in questi ulteriori 4 mesi altri 10 miliardi, e quindi insomma non ci si può lamentare effettivamente per come è andata. E allora, infatti, gli indecisi della prima fase dello scudo ci sono ancora in circolazione. Qualche ascoltatore ci sta chiedendo, insomma, qualche suggerimento su come comportarsi. Comincio subito a leggere le vostre domande ai nostri interlocutori di questa mattina. Il dottor Alessandro Dragonetti, dottore commercialista, partner dello studio Bernoni Professionisti Associati di Milano, e l'avvocato Fabrizio Vedana, responsabile dei servizi legali di Unione Fiduciaria e Banche Popolari. Allora, cominciamo con un sms, poi sento Egle che sta aspettando da un po', ma un ascoltatore, Stefano da Milano, ci racconta che ha probabilmente una casa in Costa Azzurra, genera reddito, probabilmente l'affitta, con dichiarazione dei redditi regolarmente fatta in Francia. Ma che cosa fare? Va denunciata anche in Italia il valore o il reddito generato? Spero che la domanda venga posta in diretta. Stefano, eccoci. Allora, avvocato Vedana, cominciamo con lei. Caso abbastanza, tra l'altro, comune. Caso abbastanza classico, immobile detenuto in Francia, gli italiani amano la Francia, soprattutto una certa zona della la Francia dove si va a svernare, quindi molti italiani ci hanno chiesto come comportarsi, spesso volentieri casa a disposizione, non come nel caso dell'ascoltatore, quindi casa a disposizione, lo scudo si può fare, ovviamente bisogna capire se serve farlo, nella misura in cui l'immobile in Francia, se era a disposizione, non doveva essere messo nell'RV, doveva essere invece dichiarato, cosa bisogna capire se aveva fatto l'ascoltatore, l'eventuale trasporto all'estero del denaro utilizzato per acquistare l'immobile. Ah, ecco. Quindi quello è il passaggio delicato nel caso dell'immobile francese. Se l'immobile è un immobile a reddito, come in questo caso, e l'ascoltatore ha già presentato la dichiarazione dei redditi in Francia, comunque nell'RV, quantomeno a partire da quest'anno, andranno messi questi immobili. Quindi è evidente che per il passato bisognerà capire soprattutto che tipo di... Come ha fatto a comprare l'immobile. Sostanza. Quindi se il denaro è stato canalizzato tramite banca, quindi la banca italiana ha fatto arrivare sulla banca francese il denaro necessario per comprare l'immobile, il problema non c'è perché ai fini del monitoraggio nulla doveva fare il cliente. Se invece è stato comprato con denaro che il cliente si è portato con sé in Francia, in una o più tappe, evidente che lo scudo in questo caso sarebbe bene valutare di farlo. Poi vorrei chiedervi anche qualche delucidazione proprio sul concetto del monitoraggio fiscale. Prima però Egre dalla provincia di Vicenza che aspetta da un po', benvenuta. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, un po' di risposta l'ho avuto già con la Francia, però il mio caso è diverso perché si tratta di Croazia. In Croazia gli italiani non potevano comprare fino al 2009 e io ho comprato un immobile nel 2006 con regolare bonifico bancario, quindi non ho fatto nulla di illegale. E il discorso è questo, che dal 2009 ho dovuto fare però per comprare l'immobile una società di capitale con un valore inferiore ai 10.000 euro, per cui il commercialista mi aveva detto che non era necessario denunciarlo perché non era fruttifero. E adesso però dal 2009, dall'agosto, ho fatto la documentazione, ho fatto la richiesta di passare l'immobile come persona fisica. Non ho mai denunciato né nell'RV, perché la casa è per mio uso, non sì, ho mai affittato. Quindi non è prodotto, esatto, non produce e neanche appunto la società, perché non era fruttifera. Sì. Domanda, cosa posso fare ora? Cosa deve fare ora? Tra l'altro è una cosa molto divertente perché i miei interlocutori di Salvadanaio si guardano ovviamente, quindi si confrontano, si scrutano con lo sguardo, insomma, qual è la risposta più corretta da dare. Intanto, ma è così complicato comprare una casa in Croazia? Ci sono delle località bellissime, tra l'altro, che hanno avuto anche, come dire, rispolvero turistico da qualche anno strepitoso. Dottor Dragonetti, cominciamo con lei intanto. Sì, allora intanto... Buongiorno alla signora Egle. Sì. Diciamo che è un caso abbastanza atipico, nel senso che di violazioni non ne ha commesse, perché ha canalizzato i soldi, ha avuto una partecipazione di un valore inferiore ai 10.000 euro. Al 31/12/2008 non aveva una situazione probabilmente che configurasse un illecito dal punto di vista del monitoraggio, e quindi non c'era il presupposto per dover scudare, a meno che bisognerebbe capire come ha apportato l'immobile nella società, se l'ha venduto, se l'ha conferito. Possiamo sentire, abbiamo ancora Egle, Egle è ancora con noi? Sì. Ha sentito le domande che le ha rivolto il dottor Dragonetti? Sì, è stato fatto un prestito alla società, cioè è stata fondata questa società con un valore capitale di inferiore a 10.000 euro. Quindi il prestito non era fruttifero e quindi non ha modificato il valore patrimoniale dell'azienda. E quindi in questo caso cambia qualcosa? Diciamo questo, che per dire che il prestito non fosse fruttifero dovremmo avere tutte le formalità che il nostro legislatore tributario richiede affinché un finanziamento non sia fruttifero. Quindi avere una data certa, un atto con data certa che sancisca che quello è un finanziamento infruttifero, altrimenti ogni finanziamento è potenzialmente fruttifero, ha un saggio legale e quindi si potrebbe supporre che il finanziamento andasse o potesse essere diciamo scudato, per usare un termine poco... Okay, io mi sono già persa, quindi Egle cosa deve fare? Potrebbe dello scudo fino al 6 febbraio? A certe condizioni valutare l'ipotesi di scudare il finanziamento verso la società. Va bene, Egle, l'abbiamo convinta? Non molto, perché? Perché, cioè non è stato fatto niente di illegale, praticamente io ho pagato col bonifico bancario, per cui non ritenevo di aver fatto una cosa illegale, capito? No, ma signora, chiedo scusa se lei interrompo, non è, cioè, quando uno deve fare lo scudo non necessariamente ha avuto un comportamento illegale, ma in questo caso, in perfetta buona fede, se il finanziamento che è stato contratto tra lei e la società estera non ha tutti i crismi che la nostra legge richiede per essere considerato infruttifero, lei potrebbe avere la possibilità di avvalersi dello scudo. Ciò non toglie che se lei riesce a documentare e a provare che il finanziamento era di tipo infruttifero, lei non ha neanche la possibilità di avvalersi dello scudo, in quanto nessuna violazione è stata commessa, dolosa colposa è stata chiaramente commessa. Benissimo, allora andrei avanti con Graziano da Bologna. Graziano, buongiorno a lei. Buongiorno, io vorrei porre un quesito e mi scuso se per caso è già stato trattato all'inizio della trasmissione. No, non credo, ma... vederlo così non mi sembra, Graziano, ma in ogni caso ripeterci non è un problema, si figuri. Si tratta di questo, esiste un certificato di deposito presso la Repubblica di San Marino scadente a luglio 2011 e l'intenzione era quella di scudare vendendo anticipatamente il certificato, cosa che è stata richiesta alla banca. La banca però risponde che contrattualmente ciò non è possibile. Conseguentemente questo certificato scadrà a luglio 2011 e mi pare di capire non c'è la possibilità di regolarizzare. Allora, certificato di deposito presso una banca della Repubblica di San Marino che lei vorrebbe liquidare, che però contrattualmente la banca dice non è possibile, quindi deve rimanere in essere, ma considerando appunto la scadenza di luglio 2011 non vedo la strada per regolarizzare la situazione. Grazie Graziano. Avvocato Vedan, allora, causa ostativa o no? Non ho capito niente. Causa ostativa, sì, ahimè, purtroppo in questo caso il certificato di deposito andrebbe a scadenza in un momento successivo alla scadenza prevista per le cause ostative, che peraltro per San Marino non scade come per tutti gli altri 31/12/2010, ma 30 giugno 2010. Credo che l'unica strada possibile che ha davanti il cliente, l'utente è quella di provare a ipotizzare un rimpatrio giuridico, quindi per ora lo scudo lo fa, non fa quello che forse ha in mente, cioè di vendere il certificato di deposito e riportare effettivamente anche in Italia, certo, la liquidità che ne riviene, lascia per ora i soldi all'estero presso la banca sammarinese presso la quale si trovano, va da una fiduciaria italiana, chiede alla fiduciaria italiana di intestarsi a suo nome quel conto, quel deposito, quel certificato, fa il cosiddetto rimpatrio giuridico, quindi fa lo scudo. Quando il certificato andrà a scadenza dirà alla fiduciaria: quel certificato è diventato liquido, a questo punto i soldi fammeli ritornare in Italia. Ho capito, e a quel punto quel famoso conguaglio di cui parlavamo prima, evidentemente se il certificato avesse un valore diverso in quel momento? Beh, a questo punto il certificato dovrebbe comunque avere un valore già predeterminato del rimborso, stabilito. Quindi non credo che sia un problema in termini di determinazione del valore. Allora, 800240024, vedo tante domande, tanti ascoltatori pronti, volevo anche leggere un'altra domanda di un ascoltatore al 349-238-666. Molti ci chiedono dei giudizi o politici piuttosto che su tutta quanta l'operazione. Lo sapete bene che noi a Salvadanaio questi non ne diamo, di fatto molti soldi sono rientrati, speriamo soprattutto che il governo, insomma, questo nuovo pacchetto di risorse che si trova, ne sappia fare buon uso a prescindere da tutte le valutazioni appunto che si possono fare sull'intera operazione. Sappiamo bene, è una sanatoria, è un condono, chiamatela come volete. Io capisco che chi paga sempre le tasse, magari da semplice lavoratore dipendente, si, come dire, irrita abbastanza di fronte a tutto questo. Di fatto noi a Salvadanaio abbiamo un'altra missione, che è quella di spiegare poi concretamente come ci si deve comportare quando la legge ci dà certe opportunità o anche ci conferisce, insomma, certi obblighi. Davide, nel caso volessi regolarizzare una partecipazione azionaria non quotata, come strumento, che strumento posso utilizzare? La partecipazione è in un paese dell'est europeo. E allora, questa partecipazione azionaria non quotata in un paese dell'est europeo, come la regolarizziamo, avvocato Vedana? La domanda è di Davide. Ecco, hai detto bene come la regolarizziamo. In effetti nei paesi ormai sono dentro lo scudo io. Assolutamente, ormai ci puoi sostituire credo. Benissimo nelle risposte. Allora, la regolarizzazione, abbiamo detto, è possibile nel caso in cui il bene si trovi in paesi comunitari. Evidente che nell'est Europa ci sono molti paesi comunitari. Se parliamo di Bulgaria, Romania, ad esempio, sono paesi comunitari. Il cliente può decidere di regolarizzare questa partecipazione, che sia oppure no rappresentata da un documento cartaceo. Qualora invece il cliente detenga questi immobili, questi beni in un paese dell'est Europa non comunitario, ad esempio in Ucraina, pensando a un est Europa piuttosto lontano, in questo caso non può optare per la strada della regolarizzazione, ma ancora una volta la sola strada del rimpatrio giuridico. Mm-hmm. Cosa deve fare? Nel primo caso, con la regolarizzazione, si presenta presso la sua banca, presso la fiduciaria, la SIM, la SGR, presenta la dichiarazione riservata, compila lo spazio relativo alla regolarizzazione, paga l'imposta, il 6% o il 7% a seconda del periodo, e dovrà poi ricordarsi tutti gli anni di mettere nella sua dichiarazione dei redditi, nell'RV, questa partecipazione. Qualora invece decida o debba per forza optare per la strada del rimpatrio giuridico, si presenta non in qualsiasi intermediario ma necessariamente presso una fiduciaria. Mm-hmm. La fiduciaria riceve un incarico ad amministrare quella partecipazione giusto per il tempo necessario per scudare questa partecipazione. Subito dopo, sostanzialmente, la fiduciaria esce di scena. Questo perché? Perché è l'unica strada attraverso la quale appunto si possono scudare beni che si trovano in paesi non comunitari, mm-hmm, extracomunitari. Avvocato Vedana, per chi brancola completamente nel buio su questi argomenti, come possiamo intercettare, individuare una fiduciaria di fiducia? Sembra un termine, insomma. Beh, la prima cosa è guardare alla propria banca di fiducia, spesso e volentieri. Quindi le banche. Quindi la prima cosa è l'intermediario, insomma. La prima cosa è l'intermediario, spesso e volentieri ha una sfiduciaria al suo interno. Se ha un professionista di fiducia, il commercialista dal quale va per fare la dichiarazione dei redditi, può chiedere al commercialista di fiducia di farsi assistere. Spesso e volentieri i commercialisti hanno il loro network di fiduciarie che già utilizzano da tempo. Se proprio non ha alternative, può andare sul sito dell'Asso Fiduciaria, che è l'associazione che raggruppa tutte le fiduciarie italiane, chiudersi gli occhi e provare col dito a vedere dove il dito finisce e vedere di trovare. Speriamo la fiduciaria. Speriamo proprio di non assegnare completamente il destino del nostro denaro alla casualità. Comunque ci sono dei passaggi che si possono fare prima addirittura dell'affidamento al caso. Dottor Dragonetti, abbiamo o fatto il rimpatrio fisico o giuridico o una regolarizzazione appunto di un'attività finanziaria detenuta all'estero, quindi abbiamo regolarizzato tutto, ma abbiamo sistemato praticamente la situazione pregressa. Da quest'anno in avanti che cosa facciamo? Allora, per chi l'ha fatto nel 2009, nel 2010 dichiarerà nel W, diciamo. Allora, intanto bisogna prima di tutto capire che il rimpatrio giuridico o fisico effettivo non determina delle conseguenze dal punto di vista del monitoraggio fiscale. Mm. La invece regolarizzazione determina degli obblighi in termini di quadro W, mm-hmm, che è questo famoso quadro da allegare in dichiarazione, nel quale si indicano le consistenze che si detengono all'estero alla fine dell'anno precedente. Quindi chi ha fatto nel 2009 lo fa nel 2000 e, per il 2010 nel 2011, chi l'ha fatto invece nel 2000 e 10 lo farà l'anno, certo, successivo. Quindi no, tanto per chiarire che chi è che ha sanato la propria situazione non è che da qui in avanti poi il fisco italiano non deve rispondere, no, più di niente. Anzi, la cosa importante sono i redditi, peraltro, che vengono a essere percepiti da questi asset finanziari che possono essere stati regolarizzati, dovranno essere chiaramente tassati, e quindi è un ulteriore provento per il nostro erario che, oltre ad avere guadagnato 4 miliardi di euro e passa sulla sanatoria, porterà a casa anche le imposte su questi rendimenti. E insomma, speriamo poi di questo denaro se ne faccia buon uso, questo tanto per convincere ovviamente chi invece contesta ovviamente la... Avvocato Vedana, voleva aggiungere qualcos'altro? Ovviamente, tutto vero quello che ha detto il collega. Ovviamente se il cliente decide di utilizzare un soggetto italiano per fare lo scudo che può fargli da sostituto d'imposta, non dovrà fare l'RV, questo come avviene normalmente nel caso di investimenti in titoli sul quale c'è qualcuno che fa da sostituto. Allora, dove andiamo? Abbiamo 5 minuti, 3 persone in attesa, tanti messaggi. Cominciamo con Elda da Milano che aspetta da un pochino. Elda, benvenuta. Buongiorno a tutti. Dunque, io ho un problema, ma non lo so se è un problema. Magari non lo è. Cioè, ecco, il mio promotore finanziario ha investito una somma in un fondo che si chiama Franklin Templeton. Sì. Mm-hmm. È la sede di Lussemburgo. Sì. Questo qua presente, però nel modello di sottoscrizione c'è scritto che il presente modulo è stato trasmesso alla Consob in data 29-2007. Sì, non... Il promotore poi si, il distributore sarebbe una SIM che si chiama Copernico. Sì. Ecco, cioè, non lo so, io siccome sono ignorante in materia e questo è investito in Lussemburgo, non lo so se sono in regola. No, tra l'altro no. Poi magari possiamo anche, se vuole, girare eventualmente la sua domanda agli amici di Copernico, sì, ma amici, perché so che è una società appunto di distribuzione di prodotti di investimento indipendente, una società di consulenza indipendente, però insomma deve scudare anche un tipo di attività finanziaria di questo tipo, avvocato Vedana, la nostra ascoltatrice. Signora Elda può star tranquilla, non deve fare lo scudo nella misura in c'entra cui niente. Lei ha comprato sì un prodotto estero, ma l'ha fatto per il tramite di un intermediario italiano. Quindi a questo intermediario italiano avrà fatto pervenire il denaro necessario per sottoscrivere questi fondi, ma è tutto già canalizzato, quindi non c'è stata nessuna violazione. Diverso è se lei l'avesse fatto passando attraverso una banca estera, non in un'italiana. Io sono stupefatta delle donne che ci stanno chiamando questa mattina su questo argomento, perché veramente di questa trasmissione sono qua davanti a questo microfono da 6 anni e non ci ho capito niente. Facciamo la casa, le bollette, la spesa, ci chiamano tutti gli uomini che stanno gestendo il bilancio della famiglia in maniera, come dire, molto attiva, ma da altri punti di vista. Dello scudo fiscale in casa però si occupano le donne. Luisa da Brescia, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, io ho una domanda veloce da fare. Sì. Io ho due figlie che hanno studiato all'estero e prima avevamo in affitto, gli affitti spropositati di sì. Una grande città fa sì che abbiamo comprato un monolocale piccolino. Poi dove le ha mandate a studiare, Luisa? Erano a Parigi. Sì. Poi, poi un bilocale e basta. E poi sono due proprietà distinte oppure poi ha venduto il monolocale e preso il bilocale? No, mantenuto il monolocale e preso un bilocale. Benissimo. Poi si sono sposate, insomma, rimanendo là, vivono là, hanno figli là e compagnia bella, e hanno avuto una casa per uno con un aiuto, poi si sono pagati il mutuo loro. Sì. Quindi io chiaramente ho mandato a una 300, all'altra più o meno, insomma, 1.000 euro. Per comprare questa casa, poi il resto ho fatto il mutuo loro, intestata loro, vivono là, lavorano là. Che devo fare? Allora Luisa, sì, chi vuole rispondere, dottor Dragonetti, la assegno a lei. Insomma, intanto fortunate queste ragazze, insomma, che mamma e papà hanno comprato anche delle belle casette a Parigi che si possono godere e poi vabbè, hanno mantenuto la loro vita lì. Allora, intanto, assumendo che la provvista per l'acquisto di questa casa sia stata canalizzata sul canale bancario, come assumiamo chiaramente, e assumendo che le due figlie siano fiscalmente residenti in Francia, perché se vivono lì, hanno figli lì, lavorano lì, diciamo che è ragionevole ritenere che siano fiscalmente residenti in Francia, dal punto di vista dell'Italia non vedo adempimenti che debbano essere fatti con riferimento ai due nuovi immobili. Andrebbe visto meglio il discorso del primo immobile, che però non era produttivo di reddito perché era dato alle figlie, ragazze. E quindi al limite c'è il capital gain generato sulla vendita dell'unità piccola quando hanno preso quella grande, ma poteva no, già ma essere le ha mantenute tutte e due. Ha mantenuto allora monolocale e bilocale, sì. E quindi direi che non vedo profili di utilizzabilità dello scudo. Allora, però, se volesse avere una risposta ancora più precisa, invitiamo Luisa, così come tutti gli altri ascoltatori che non riesco oggi ad accontentare, a scriverci, perché come al solito tempesterò di mail l'avvocato Vedana, che ormai ci ha abituato, ma da oggi comincio anche col dottor Dragonetti. Grazie molte per essere stati con noi e buon lavoro, perché insomma questo è un ginepraio che magari mi toccherà anche rimettervi insieme un'altra volta per ritornare a parlarne. A voi tutti, da Deborah Rosciani, buona giornata, domani.